Il rettilineo è una tortura e quando lo vedo prendo paura. Il rettilineo è una tortura e quando lo vedo prendo paura. Son fermo quando la strada è diritta davanti a me. Son fermo quando la strada è diritta davanti a me. Prendo la moto, vado in montagna, a parte e pieghe ritorno giù. Prendo la moto, vado in montagna, a parte e pieghe ritorno giù. Come non dire di sì.